Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Violenza sessuale su minori, l'ultimo caso a Trieste, ma negli ultimi due mesi sono state ben quattro, dice il Burlo. Cordovado il giorno dopo e le voci della comunità: non è un pericolo, se tornerà avrà bisogno di aiuto. Il ministro Nordio a Udine per i 100 anni di Paola Del Din. La patriota spero serva a dare coraggio a qualcuno. Negli ultimi 10 anni giù di 5.330 unità i giovani in età lavorativa. Il fenomeno risparmia Trieste e Gorizia. Settore legno a rallenti, il presidente del cluster Tonon spinge su agilità imprenditoriale e nuove tecnologie. Udinese in cerca di vittoria, questo pomeriggio al Friuli c'è il Frosinone, campagna abbonamenti chiusa, oltre quota 13.000. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In apertura di giornale la cronaca, l'ultima violenza sessuale poco più di 24 ore fa in pieno centro a Trieste, ma l'ospedale infantile conta ben 4 violenze sessuali a danno di minorenni da luglio a oggi, delle quali 2 sono state violenze di gruppo e anche gli autori sono sempre minori. Sulla rampa di un parcheggio sotterraneo nel cuore della città di Trieste, una ragazza minorenne ha subito una violenza sessuale attorno alla mezzanotte di giovedì davanti alle poste centrali. Consumata la violenza, l'uomo sembra un suo conoscente, probabilmente un giovane italiano. È fuggito. Lei ha chiamato la polizia ed è stata portata al pronto soccorso Burlo. Sulla violenza sono in corso gli accertamenti medici. La giovane ancora non è stata sentita approfonditamente dalla polizia. Noi siamo al pronto soccorso del Burlo con il direttore del reparto, Alessandro Amadeo. Questo è solo l'ultimo caso, non sono aumentate le violenze, perché lei dice è un trend purtroppo costante, voi lo vedete? Sì, lo vediamo da tanto tempo, l'ennesimo caso di violenza che quest'estate, diciamo così, se ne parla un po' di più, ma di fatto noi non abbiamo notato un vero trend in aumento. In realtà la cosa fondamentale è che noi vediamo solo una punta dell'iceberg di tutte quelle che sono le violenze sessuali, che purtroppo nella maggior parte dei casi avvengono anche in ambito intrafamiliare, quindi sono ancora più difficili da trovare, da scoprire, diciamo. Nella città di Trieste addirittura 4 casi da luglio ad oggi, sono davvero tanti, di cui 2 violenze di gruppo. Sì, in effetti da luglio abbiamo avuto questi 4 casi che sono, diciamo così, un piccolo aumento di casi di violenza, ma non mi sentirei di dire veramente che c'è un aumento in generale. Questo purtroppo bisognerà vederlo in un periodo un po' più lungo, quindi vedremo nel giro di un anno o 2 anni se c'è veramente un aumento dei casi di violenza. Ribadisco, il numero di violenze è sostanzialmente stabile, purtroppo, nel senso che sono cose che vediamo almeno una volta al mese o anche 2 volte al mese da sempre. Violenza di gruppo, sono amici, sono conoscenti? Spesso sono amici o conoscenti e spesso la vittima appunto si fida erroneamente di queste persone, e quindi di fatto queste violenze si consumano spesso appunto in contesti che iniziano in maniera amicale, così come feste o riunioni di gruppi, e poi dopo diventano quello che sappiamo. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia. 24 ore dopo la resa dell'ingegnere veneto rimasto asserragliato in casa a Cordovado per più di 2 giorni, il paese riflette sul futuro dell'uomo e sulla situazione vissuta. Gli stendardi del Palio della scorsa settimana ancora sugli edifici, i negozi, sulla strada che riaprono. Cordovado torna alla normalità dopo i quasi 3 giorni in cui è stato ostaggio della trattativa tra l'ingegner Luca Orlandi e le forze dell'ordine per la consegna delle armi che deteneva con un permesso scaduto. L'uomo, che ieri poco prima di mezzogiorno si è consegnato spontaneamente, si trova ancora in ospedale a Pordenone, dove è stato accompagnato dal carabiniere che nel corso delle 50 ore aveva condotto la mediazione. Chi ha vissuto le ore dello sgombero, come la titolare del bar all'angolo a una decina di metri dall'abitazione, ripensa ai fatti di mercoledì con serenità. Qui sono venuti i carabinieri a dirci di lasciare il locale, di chiudere e andarsene, e siamo andati via tutti. Siete un po' preoccupati che questa persona alla fine possa tornare da un giorno all'altro, anche se senza più le armi? Io no, sinceramente. Non sono preoccupata, non ha mai fatto niente di eclatante qui da noi. Ieri la sindaca Lucia Brunettina aveva aperto la possibilità di riaccogliere l'ingegnere nella comunità cittadina una volta risolta la fase acuta, con il sostegno dei servizi sociali. In paese un sentimento piuttosto diffuso. Orlandi, chiuso nella sua solitudine in quello che lui stesso aveva dichiarato ritiro spirituale, in centro si vedeva poco, ma a parte un episodio con un vicino proprietario di un cane, non aveva mai creato problemi. Non è pericoloso per la comunità, secondo lei? Secondo me no. Secondo me non è stato mai un pericolo per la comunità, anche perché appunto era un tipo abbastanza solitario e rispettiamo le sue scelte di vita. Non ho visto il pericolo prima e non credo che ce ne sia anche dopo. Sicuramente avrà bisogno di un aiuto da qualche professionista nel campo psicologico. Al momento pare escluso il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio, così come il foglio di via. L'uomo dovrà rispondere in tribunale alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. Cordovado, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono ancora in corso e proseguiranno probabilmente per l'intera giornata le operazioni per lo spegnimento, la bonifica e la messa in sicurezza del deposito di 1000 rotoballe di fieno incendiatosi nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda agricola di San Vito di Fagagna. Fortunatamente il rogo non ha coinvolto persone, animali e mezzi agricoli. Sul posto continuano ad operare squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Udine con il supporto dei distaccamenti di San Daniele del Friuli, Codroipo e Maniago, ancora in fase di accertamento le cause del rogo. Udine ha celebrato questa mattina i 100 anni appena compiuti di Paola Deldin. Sotto la loggia del Leonello una cerimonia con tanti ospiti, tra questi anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Dopo il compleanno privato arrivano a distanza di una decina di giorni anche le celebrazioni pubbliche per i 100 anni di Paola Deldin, figura centrale della resistenza in Friuli Venezia Giulia. A Udine, alla loggia del Lionello, la fanfara degli alpini della Iulia accompagna il suo arrivo in mezzo a saluti e a fiori. Presenti insieme ai vertici degli alpini e dei carabinieri, le istituzioni della città e della regione e il prefetto. E dal governo è arrivato anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Io sono un ammiratore di Paola Deldin da 20 anni, da quando ho letto le sue imprese sui libri inglesi che purtroppo non sono stati editi in Italia. È una delle ultime partecipanti dello Special Operation Executive, che è stata una delle organizzazioni fondamentali della resistenza europea. Durante la cerimonia vengono ricordate le imprese di Paola Deldin, l'adesione alla resistenza, il lancio in paracadute oltre le linee nemiche. Paola Deldin, come spiegano nei discorsi, è simbolo di eroismo, di amor di patria, di lotta per la libertà, ma soprattutto di coraggio. E nel corso della cerimonia le viene consegnato l'attestato di alpino onorario. Lei applaude contenta, non si sente, dice, un monumento nazionale, ma solo una persona che ha fatto il suo dovere. Paola Deldin. È contenta per questa festa? Insomma, mi dispiace aver dato tanto da fare, ma per organizzare, ma se serve a qualche cosa, se serve a incoraggiare qualcheduno, mi va bene. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi 10 anni in Friuli Venezia Giulia è sceso di 5.330 unità il numero dei giovani in età lavorativa fra i 15 e i 34 anni. Lo denuncia l'ufficio studi della CGA di Mestre. Questa contrazione della popolazione nella fascia più produttiva della vita lavorativa, pari almeno 2,3%, ha rispetto alle regioni del sud, meno 15,1%, una dimensione molto contenuta. Inoltre ha interessato le province di Udine, Pordenone, ma non Gorizia e Trieste, che invece hanno registrato risultati sorprendentemente positivi. Tuttavia, nei prossimi anni l'onda lunga della denatalità investirà con maggior forza tutta la regione più est del paese, con effetti sul mercato del lavoro molto negativi. Già oggi, infatti, molti imprenditori faticano ad assumere personale, non solo per il problema di trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché la platea degli under 34 pronta a entrare nel mercato del lavoro si sta, almeno per una buona parte della regione, progressivamente riducendo. Insomma, la crisi demografica sta facendo sentire i suoi effetti e nel giro di breve tempo la rarefazione delle maestranze più giovani è destinata ad accentuarsi ulteriormente. Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia richiederà 65.000 addetti in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione e rimpiazzare una buona parte di chi scivolerà verso la quiescenza diventerà un grosso problema. Secondo la CGA per almeno i prossimi 15-20 anni dovremo ricorrere stabilmente anche all'impiego degli extracomunitari. Dovremo stabilire la proposta che il permesso di soggiorno, a eccezione di chi ha i requisiti per ottenere la protezione internazionale, andrebbe accordato a chi si rende disponibile a sottoscrivere un patto sociale con il nostro paese. Il buon esito di un'iniziativa di questo tipo inoltre non può prescindere da una ritrovata efficienza dei centri per l'impiego. Strategie per rispondere alla frenata del settore legno arredo regionale. Ne parliamo ancora quindi di economia dopo una fase che è stata estremamente positiva. Se ne è parlato questa mattina in un convegno a Manzano, cuore del triangolo della sedia. Riposizionamento continuo rispetto ai mercati, materiali riciclati e attenzione all'ambiente, perché ormai questo chiedono gli studi di architettura. Utilizzazione rapida. Sono le sfide per rimanere nel mercato del presente, ma soprattutto del futuro, per il triangolo della sedia. Il settore legno e mobile della regione si presenta a questa nuova congiuntura economica, dopo un anno sicuramente positivo, ma con il segno meno alla voce produzione industriale, meno 12% la variazione rispetto all'anno scorso, stima Confindustria Udine. Tiene il mercato statunitense, è in crisi quello tedesco e così ci si rivolge più del passato al Medio Oriente e all'Arabia Saudita. Agilità imprenditoriale e investimenti in nuove tecnologie saranno fondamentali per il rilancio del comparto, indica Matteo Tonon, presidente del cluster regionale Legno Arredo e Casa. Ma sarà decisiva anche la capacità di fare sistema, con Friuli Innovazione per la prototipizzazione e la stampa 3D per la ricerca applicata, così da testare ad esempio prodotti realizzati con nuovi materiali con piccoli gruppi di potenziali clienti in maniera quasi gratuita. Oppure l'unione di forze con il COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, a cui di recente il triangolo della sedia ha aderito. COSEF che punta a creare distretti industriali autonomi dal punto di vista energetico. Il consorzio farà anche da capofila per la creazione di un centro direzionale di prototipizzazione con tanto di asilo per le aziende nel manzanese, finanziato con 6 milioni e mezzo di euro da parte della regione, come ha ricordato l'assessore alle attività produttive, Sergio Midiobini. Dal sindaco di Manzano, Piero Furlani, infine, la richiesta di collegamenti più veloci tra le aree produttive, in quel triangolo che ha come vertici Manzano, Cividale e Udine, nell'ottica di un'unica zona industriale diffusa che sappia valorizzare e rilanciare quelle esistenti. Manzano, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. In occasione di un incontro con i produttori che si è svolto questa mattina a Martignacco, il presidente del Consorzio Produttori Olio Evo, FVG Bruno Dalla Vedova, ha illustrato il progetto avviato nel giugno del 2022 per la produzione e la commercializzazione di un olio extravergine IGP. Ne abbiamo parlato con lui. Questo progetto di filiera supportato dalla regione vuole diventare un centro di riferimento per tutta la regione per produrre olio di qualità FVG. Quindi un olio di nicchia nostro. Per realizzare questo noi abbiamo come obiettivo riuscire a certificare l'olio Olio Evo FVG IGP. L'idea è quella di produrre un olio di nicchia realizzato, prodotto con olive coltivate, raccolte e lavorate in regione Friuli Venezia Giulia che diventino un prodotto di elevata qualità anche per i turisti. Che passi prevede questo progetto? Si apre il 2 ottobre per la prima stagione di molitura e le prenotazioni sono già state aperte. Entro il prossimo anno apriremo a nuovi soci ordinari, attualmente siamo in 18. Dal prossimo anno apriremo ancora ad altri soci ordinari per tutta la nostra regione. Il marchio è già stato depositato. Successivamente e avvieremo l'iter per l'IGP, serviranno un paio d'anni. È Trieste la prima tappa della campagna di informazione internazionale che vuole avvicinare i cittadini alle istituzioni e ai valori dell'Unione Europea nel 30° anniversario del mercato unico. Lo stand si trova da ieri in Piazza della Borsa. La Commissione europea celebra il 30° anniversario del mercato unico con i suoi cittadini, scegliendo Trieste come prima tappa del tour in 7 paesi dello stand in cui esperti raccontano i progressi compiuti e le nuove sfide da affrontare. Il mercato unico nasce nel 1993 ed ha contribuito a rendere più semplice la vita quotidiana di 447 milioni di cittadini europei e di 23 milioni di imprese, perché garantisce la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Gregory Stabile, responsabile della comunicazione. Molto spesso quando qualcosa va bene è grazie al governo nazionale, quando qualcosa va male è la colpa dell'Europa. Con questa narrativa e con questo tipo di dialettica per noi è difficile cercare di comunicare. È per quello che con questi nuovi piani di comunicazione cerchiamo di essere proprio a contatto con il cittadino per trasmettere quelli che sono veramente i benefici e per far capire alle persone che diritti che oggi diamo per scontati non sono assolutamente scontati, ma sono stati acquisiti grazie all'Unione Europea. Una decina di giovani stanno raccontando ai cittadini e ai turisti quali sono i vantaggi del mercato unico, con tante curiosità, come ad esempio la nuova politica industriale che ci renderà sempre più indipendenti da altri paesi per quanto riguarda le materie prime, il roaming voluto dalla Commissione Europea e non dalle compagnie telefoniche, e la legge che prevede che i cellulari siano dotati di una porta unica di ricarica USB per tutta l'Europa entro il 2024. Elisabeth Laschi, responsabile dello stand. Più di 300 persone sono state attivate, metà straniere, metà locali, tante le nazionalità, 15 nazionalità almeno, tantissimi giovani under 30, tante domande, e ho anche una bella curiosità: abbiamo avuto la visita di tanti inglesi che ci hanno detto che a loro manca tanto l'Unione Europea e volevano tanto avere un PIN I love Europe. Trieste, Vaciucci, GR Friuli Venezia Giulia. Mini conferenze di strada per ascoltare di cosa si occupano alcuni dei ricercatori e delle ricercatrici di Trieste. È Street Science in programma alle 17 in Piazza Unità a Trieste durante la Maker Fair. Racconti informali, semplici e veloci permetteranno ai passanti e agli interessati di scoprire alcuni ambiti della ricerca degli istituti di Trieste. Street Science è il primo degli eventi di anticipazione di SHAR per la Notte Europea dei Ricercatori, che si svolgerà il 29 settembre. Il portale del riuso dell'Università di Udine è tra le 8 iniziative entrate a far parte della classifica nazionale delle storie di ordinaria buona gestione dello speciale Comuni Ricicloni 2023 di Legambiente, un risultato sancito con la consegna di una targa al rettore Roberto Pinton e al team del progetto Sostenibilità. Ce lo ha illustrato uno degli ideatori, il professor Salvatore Amaduzzi. Il portale del riuso è un'iniziativa dell'Università di Udine che è nata nel 2016, quando ci siamo resi conto che molto del materiale dismesso dall'università, che finiva in discarica, poteva essere riutilizzato per altri fini. Faccio degli esempi: attrezzature di laboratorio che per l'università erano obsolete sono assolutamente riutilizzabili nei laboratori delle scuole superiori, e quindi abbiamo deciso di sviluppare una piattaforma all'interno della quale carichiamo, man mano che vengono dismesse dai vari dipartimenti, le attrezzature, quindi possono essere attrezzature informatiche ma anche mobilio, e vengono resi disponibili a chi si iscrive al portale. Al portale si possono iscrivere associazioni non a scopo di lucro, regionali e scuole. Quindi abbiamo comunicato a queste realtà l'esistenza del portale. Man mano che le attrezzature vengono caricate dai volontari dell'Università di Udine, le scuole o le associazioni lo possono prenotare, poi si concorda una giornata in cui vengono a ritirarle e ritirano le attrezzature. Ci sono possibilità di ulteriore sviluppo di questo portale? L'Università di Udine fa parte della rete delle università per la sostenibilità, la RUS, e questa iniziativa, oltre a essere stata presentata a tutte le università, è stata scelta da alcune università che stanno procedendo con loro aspetti interni amministrativi per poter utilizzare la nostra piattaforma per distribuire il loro materiale dismesso. Quindi ci saranno delle università italiane che a breve useranno il portale del riuso di Udine, e abbiamo in mente di cercare di stimolare anche qualche pubblica amministrazione locale che hanno esattamente le stesse problematiche. E adesso lo sport con il calcio, terza giornata di campionato con l'Udinese a caccia della prima vittoria contro il Frosinone alle 18.30 allo Stadio Friuli. Finora ha fatto solo un punto con la sconfitta per 3-0 in casa contro la Juventus nel match iniziale e il pareggio per 1-1 contro la Salernitana. È di Samardzic l'unico gol realizzato fino adesso dai bianconeri. Prima di tutto serve fare i conti in attacco, senza Beto, ormai volato all'Everton, e con Brenner fuori per infortunio, mister Sottil dà ancora fiducia a Lucca davanti, che si muoverà insieme a Tovin. Di fronte un Frosinone pimpante. Per l'allenatore bianconero Andrea Sottil serviranno intelligenza, sagacia tattica e molta lucidità. Intanto ha chiuso la campagna abbonamenti, 13.199 le tessere sottoscritte, un migliaio in più rispetto alla passata stagione. Con numeri record parte oggi la 25esima edizione del Festival Internazionale di Scacchi Città di Trieste. Saranno sullo scacchiere oltre 150 giocatori, il massimo precedente era 130, provenienti da 15 paesi, fra i quali Cile, India, Iran, Canada. Il torneo impegna tutti i giocatori per 7 giorni, con la conclusione il mattino dell'8 settembre. Nel torneo Master al via anche 10 grandi maestri, il massimo titolo degli scacchi, con il primo posto nel tabellone per il greco Banikas, e poi alcuni fra i migliori giocatori italiani, già vincitori del titolo italiano, come Brunello, Basso e Valsecchi, e una delle più forti giocatrici italiane, Tea Gueci. Da oggi al 9 settembre invece a Forni di Sopra il 50° campionato italiano assoluto di scacchi per ciechi e ipovedenti, a competere atleti di rilevanza nazionale e internazionale della categoria. La manifestazione, oltre a conferire i massimi titoli nazionali, è un luogo di confronto e socialità che raggiunge e coinvolge più pubblici e attori in un unico filo conduttore, l'inclusione. La rivoluzione digitale sta cambiando anche il nostro rapporto con la montagna, se ne parlerà nell'incontro In montagna al tempo dello smartphone che Vicino Lontano Mont propone alle 17 a Salars di Ravascletto a Ciasa d'Aduga, dove sarà per l'occasione ancora visitabile la mostra fotografica di Ulderica D'Appozzo in tal bosque, alberi, sentieri, storie. Porteranno il loro parere e la loro esperienza il giornalista, scrittore e filmmaker Stefano Ardito e l'alpinista e guida alpina Attilio De Rovere. Modererà l'incontro Andrea Zannini, ordinario di storia moderna all'Università di Udine. Alle 21 invece alla Fortezza di Cluse, nel comune di Bovec, viene proposta una nuova replica in sloveno dello spettacolo Sui sentieri d'Europa di e con Mattia Casone e Alessandro Conte e con la partecipazione di Muhammad Abd al-Munim, editore, scrittore e poeta siriano di Aleppo, costretto a fuggire dal proprio paese a causa della guerra civile. Ora uno sguardo al meteo, il cielo in prevalenza sereno, le temperature registrate a mezzogiorno a Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo a Pordenone e Udine, 25 gradi a Gorizia, 26 a Tolmezzo, 23 gradi a Sappada, 20 a Tarvisio, 22 a Forni di Sopra, 21 gradi sul Piancavallo, invece 17 gradi e, sul Monte Lussari 16, sullo Zoncolan ci sono 16 gradi alla stessa temperatura, sulla costa Lignano e Grado 25 gradi, temperatura del mare 24 gradi e mezzo. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature in aumento. Domani cielo sereno o poco nuvoloso per velature ad alta quota, venti di brezza e temperature in aumento. Ancora un appuntamento a Udine all'Oratorio del Cristo della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe alle 18. Si festeggiano i 40 anni di attività del gruppo teatrale della Loggia di Udine, compagnia amatoriale fondata nell'83 da alcuni diplomati della Scuola Civica di Recitazione per il Teatro in Lingua Friulana, che fu diretta dall'attore e regista teatrale Nico Pepe. In programma una conferenza spettacolo dal titolo La contadinanza in Friuli nel XVI secolo, Ciro di Pers, con una relazione di Paolo Patui e letture interpretative tratte dalla Carlina, commedia che Ciro di Pers scrisse nei primi anni del Seicento. La parte musicale sarà affidata a Oti Gandhi, evento sostenuto da Comune, Istitut Ladin Furlan e Arlef. All'Arena Alpeadria di Lignano Sabbiadoro la rassegna Notti in Arena si chiude questa sera con il concerto dei Comacose. L'inizio del concerto è alle 21 per la tappa regionale del Summer Tour in Friuli, terra natia della pordenonese Francesca California Mesiano. Penultimo appuntamento per Carni e Armonie, Apreone alle 20:30, Chiesa di San Giorgio Martire, un trio di giovani interpreti della Scuola di Alto Perfezionamento per la Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon propone un programma tra Beethoven, Kahn e Nino Rota. Girovagando in musica sul Montasio, al rifugio di Brazza, alle 20 il gruppo Caronte in God Save the Queen, 70 anni di rock sotto il segno di Elisabetta II. Domani alle 10:30 sull'altopiano Amalga Montasio, What a Wonderful World. Alle 15 al rifugio Gilberti, Onda d'Urto. E per la stagione di Notte del Timavo, il secondo di due incontri sintonizzati dedicati al silenzio a San Giovanni in Tuba, Massimo Somenzi proporrà tra Monpu e San Giovanni della Croce la musica Caiada alle 21. Nel ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, il Centro Raccolta Farmaci di Udine ricorda la figura del cantautore di origini triestine con uno spettacolo alle 21 al Teatro Palamostre di Udine con il gruppo Facciamo Finta di Essere Gaber. Interverrà anche Paolo Dalbon, presidente della Fondazione Nazionale Gaber. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a Go 2025, Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura, alla Piazza della Casa Rossa Gorizia, concerto dei Britannici, Editors con supporter gli sloveni MRFI alle 19. E ancora il concerto di Electra Zanella, premio Mari 2022 per il miglior pianista dell'anno, alle 18 al Tomadini di Udine. Alto Livenza Festival propone dalle 16.30 dalla piazza Martiri Garibaldini di Caneva un percorso cicloturistico e musicale di 6 km, parte musicale affidata all'ensemble Baroque Bridge. Andrà a Jaroslav Fret, regista e formatore polacco, direttore dal 2004 del prestigioso Grotowski Institute di Wrocław, il premio alla carriera alla stella dell'Arlecchino Errante, Confartigianato Imprese Pordenone. Alle 18, ex convento San Francesco, la sera il concerto dei Sirom. E ora riprendono i programmi, domani gli appuntamenti radiofonici domenicali con Vita nei Campi, la trasmissione della nostra redazione dedicata ad agricoltura e agroalimentare. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani parte con le istruzioni per l'uso per le aziende agricole che devono far fronte ai danni delle recenti ondate di maltempo. A seguire la storia di Angelo Floramo ci parla delle sagre friulane, di come affondino tra il sacro e profano le loro radici nella cultura e vita popolare. Per la frutticoltura una serie di consigli per curare le piante devastate dalla grandine. E ancora parte una nuova rubrica dedicata alla conservazione e trasformazione alimentare dei prodotti di orti e campi e per quella dei sommelier una serie di consigli per leggere correttamente le carte dei vini in ristorante. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione del giornale radio, alla parte tecnica Mauro Cumine, Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, dalla Razzani e Rita Micoli, grazie dell'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.